22:50 minuti primi. Così va meglio. Le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale dal 1977, 40 anni. Quarant'anni di cursori che frusciano. D'altronde sì, abbiamo delle mani piuttosto delicate qui da queste parti. www.ondarossa.info, il sito della radio dove potete ascoltare la diretta di Radio Onda Rossa in streaming anche fuori dal campo di azione della modulazione di frequenza. Dove andando su Sostieni potete e dovete trovare tutte le modalità per sottoscrivere, per finanziare, per mantenere in vita questa emittente, come avete fatto da 40 anni a questa parte. Trovate anche i podcast delle dai, non ve lo posso non dire, poi forse l'avevamo anche mezzo anticipato la settimana scorsa, però stasera sera da punk, fra poco, dai. Appena finito, come spiegare a ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagne, come fare a sostenere per la radio, perché ci piace dirlo, il 61 80 40 01, il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. .0185 via dei Volsci 56, Roma, Sallollo. Dopo avervi ricordato che ondarossa@ondarossa.info è la mail della redazione della radio per le vostre comunicazioni, e che invece per insulti al sottoscritto, allo spazio che state ascoltando, vale la email 25 o'clock 25, scritta al numero @ondarossa.info. E avervi ricordato il secondo numero della radio, quello che anche lui dal 1977 sta qua e serve per contattarci, cioè 06 49 17 50. Ricordiamo al volo proprio che domenica prossima, ma anche sabato prossimo, abbiamo la terza delle uscite, la vetta dei 40 anni. Tre uscite collettive per chi ama la montagna e Radio Onda Rossa, un'arrampicata, una passeggiata e un'escursione in tre domeniche differenti. Siamo arrivati all'ultima domenica, quella che ci porterà fino alla vetta del Monte Velino, terzo appuntamento. Domenica 11 alle 7 al parcheggio di Castel Madama. L'appuntamento, appena usciti praticamente al casello di Castel Madama, c'è un grosso parcheggio. Girando subito a destra ve lo trovate. E lì si possono lasciare le macchine magari e fare una parte del viaggio insieme agli altri compagni e compagne. Inoltre, però, anche questa è valida. Alcune di noi andranno direttamente con la tenda Rifugio Sebastiani sabato 10, e quindi chi volesse anticipare, spezzare la lunga camminata fino alla vetta del Velino, lato Piani di Pezza o Campo Felice, insomma, può venire direttamente al pomeriggio, la sera prima, al Sebastiani, e lì ci incontriamo. E noi iniziamo così. Allora, i microfoni non li abbiamo provati, quindi andiamo al volo così. Allora, abbiamo iniziato con Spara Iuri Spara perché siamo orgogliosi, come si dice, no? In questi casi di... Vai, proviamo, dai, così vediamo se si... Spara! Infatti non si sente, vedi? Vai un po' adesso. Ecco. Sparatemi! E infatti è andata adesso. Siamo orgogliosi di presentare chi? P38 Punk, buonasera a tutti e a tutte. Non vi presentavate, non entravate in questi... No, 10 anni fa. 10 anni fa, più o meno. Erano questi gli studi. Erano questi così pure per... rinfrescati. Cioè, erano meglio 10 anni fa. No, erano meglio, sono meglio adesso. Erano più... Che c'era di differente? Che cosa ricordi? Allora, sì, mi ricordo nell'altra stanza cavi che volavano. Ah, ok. Quindi una sistemazione, diciamo, tecnico-logistica molto alla Mad Max. Ok. E quindi abbiamo dato una ripulitina, abbiamo messo le canale. Sì, infatti questa è una cosa che mi ha messo quasi a disagio. Sì. Ma vi piace questo inizio parlando dei canali, d'elettricismo e... Parlando di voi che crescete. Tantissimo, tanto non ci capisco niente, quindi. Sì, va bene. No. Beh, no, un pochino suonando bisogna imparare dei cavi e qualche cosa. Lui. Ah, c'è proprio te, attacca la chitarra. No, attacca il microfono. Io ancora non ho imparato a usare il compressore. Ok. Vabbè, dai, facciamo. Noi ce ne cosa, le vernice, i motorini. La lambretta? Sì, più vi prego di. Vi consiglio di mettere più video. Vedi che te dicevo, la cuffia serve. Stavo di una cazzata. No. Però quando la devi dire, la devi dire bene. Non la puoi dire lontano dal microfono. Scusate. La devi dire nel microfono. Ok, scusate. Bene. Allora, dai, presentiamoci un attimo. Ovviamente allora, non voglio i cognomi, sapete che in questa manchi i nomi, quelli di battaglia, come vi pare, però raccontiamo insomma come è fatta P38. Sì, adesso siamo 3 su 4 qui dentro, siamo Marco. E sono Gian Patrizio. Sid. E poi giù una. Beh, in realtà. Insomma. Tu dici 10 anni, ma in realtà la prima volta che io entrai qua dentro era nel marzo 92, quando finimmo di registrare il primo demo su cassetta, io non posso sentire perché c'ho il DAT, non c'ho la cassetta. Io ce l'ho a casa, però. Allora ti porto a te. La dovremmo riversare e mettere magari in formato. Ce l'hai in formato MP3 o qualcosa del genere? No, io i primi due lavori dei P38 non li posso sentire perché c'ho il DAT, ma non c'ho le cassette. Troviamo la maniera per riversare, insomma. Calcola che abbiamo riversato gran parte dell'archivio di Radio Onda Rossa, che era tutto in cassette, lo stiamo trasformando un lavoro immane, una roba proprio storica. Io ho dei videoregistratori molto antichi, sai quelli in bianco e nero, i primi videotape. Che qui ho visto nei filmati del 77 sono stati utilizzati. Se dovesse essere necessario riversare qualcuno di quei nastri, io posso essere a disposizione, ho molta attrezzatura di questo tipo. Guarda quante cose incontra. Perché lui tra l'altro è il braccio politico, il braccio tecnico. Io faccio i riversamenti dei video tape del passato. È diverso da quello che si fa nella musica. Sì, è diverso, però c'è un lato tecnico, insomma, da parte. C'è un lato tecnico, sì. A noi ci servirebbero i versamenti al conto corrente, quello sarebbe più. Quello deve andare a qualche paradiso fiscale. Allora, quindi, cercando di rimettere un po' il bandolo della matassa, dicevamo, nel 92 com'era la radio? Ma a me sembrava una cosa spaziale, probabilmente era infinitamente peggio. Però stavamo messi in un'altra maniera. Però quel vetro c'era e il mixer stava. Conta, io avevo 17 anni e per la prima volta vedevo uno studio radiofonico, quindi mi sembrava la plancia dell'Enterprise. Sì. Ero pure emozionatissimo. Anche se per ascoltare, per dirti la cuffia, c'avevamo l'autoradio all'epoca. C'era un autoradio che ti sintonizzava sulla radio, che ci rimandava in onda in studio quello che noi mandavamo. Ecco, te conta che proprio a San Lorenzo nel 2007 mi hanno fregato il Majestic a cassette dalla macchina. Sei stato qualcuno. Però nel 2007 magari. No, già nel 2007 non c'avevate più. Stavamo già così nel 2007. Comunque storie di miseria tecnica, Sì. No, l'arte di arrangiarsi, diciamo, è stata sempre da parte nostra. Anche penso per chi fa del punk e chi lo fa, come si dice oggi, autoproduzione, avremmo detto noi all'epoca do it yourself, perché di questo stiamo parlando. E invece voi come eravate nel 92, come eravate? Nel 92 più belli sicuramente, eravamo altri, perché questa formazione che c'è qui è quella tra virgolette nuova, stabilizzata da 15 anni, quindi tutti pischelli. E che fai? Non toccarmi. Allora, nel 91 noi in realtà nasciamo, il 26 settembre 91, e ci strutturiamo come gruppo collettivo, quindi un gruppo musicale che funziona come un collettivo politico. Esatto. E quindi è stato anche un porto di mare, nel senso, noi iniziamo. E a 16 anni da quali esperienze politiche precedenti venivate? Perché questo, cioè, Pischelli andavano a scuola, suppongo, no? Allora, io. Questa è la preistoria. Sì, preistoria. Ero un misto tra l'infatuazione ribellista di quello che rimaneva dei movimenti della Pantera e cose del genere, e ahimè, purtroppo, una qualche attenzione per quello che era il discorso di Rifondazione Comunista, poi finito come è finito. E c'era Alcolica e Mauretto, che adesso suona con i Colonna Infame, che invece avevano vedremo pure di mandarli sicuramente fidato. Con cui sia con Alcolica che con Mauretto continua ad avere un bellissimo rapporto, come con quasi tutti i P38, a parte quelli che a me ci hanno proprio lasciato, due ci hanno lasciato definitivamente, tristi note, insomma. Anzi sì, diciamo che quest'ultimo disco lo dedichiamo sia ad Antonio che Siska, che sono due ex P38 che purtroppo non ci sono più. E loro venivano da una situazione più movimentista, quel comunismo più spontaneo, più istintivo. E praticamente diciamo che insieme abbiamo fatto anche autoformazione politica oltre che musicale. Noi siamo scesi per la prima volta alle ore 16 nella sala prove del Teschio vicino Fontana di Trevi, senza aver mai visto uno strumento e con una coscienza politica molto rozza, e insieme siamo cresciuti, così come insieme è cresciuto chiunque ha fatto questo percorso con noi. Certo. Nei P38. Invece facendo poi un salto, arrivando a, diciamo, un decennio, che con quante pubblicazioni, così tanto per dare dei numeretti, allora, due demo. Stare le tappe, diciamo, sì, i famosi due demo su MC che io non sento dal 99. Una compilation prodotta dal Tiananmen di Napoli con il singolo Stalingrad. E un'altra compilation con Delitti di Stato prodotta dalla cinese Proletopia Records. Poi un presa diretta live nel 2001 Crisi, e quasi subito dopo esce il primo CD che è Con ogni droga necessaria, A volte ritornano, fino ad arrivare all'ultimo disco completo coprodotto con l'Anfibio Records, che è Vittime e Carnifici, che è l'ultimo disco. Poi nel 2009 facciamo uscire il singolo Fischia il Vento. Da quel momento io ho una situazione lavorativa pesantissima, non entro nei particolari, però questo non c'entra un cazzo. Sì, no, c'entra, perché comunque c'è un buco che non è che perché mi stava a grattare, perché mi stava a far mazzo. Vabbè, è diciamo un po' la storia di, appunto, di chi fa autoproduzione, di chi ovviamente non campa con la musica, anzi di solito ci non campa d'aria. Non campa d'aria, e più che altro, più che campaccio, ci rimette, insomma, mette del suo per poi arrivare a produrre, appunto, e autoprodurre qualcosa. E questo è quanto. Noi come obiettivi, cioè, chi vive così e chi fa così può essere pure che si deve fermare 4, 5, 3, 6 mesi, un anno, 2, 5, insomma, quello che è necessario. Sì. Poi no, durante questi anni abbiamo fatto benefit tipo Croce Rossina del Movimento. No, dico sì, in questi anni, quindi queste qui sono, perché praticamente credo che siamo arrivati all'oggi, no? Cioè 2009 il sì, singolo, e poi già passiamo al 2017 questo. Sì, e questo è il nuovo lavoro, La morte delle nazioni. Okay. E quanta attività invece live in questi anni? Benefit, bene, per pagati sì, pochissimo, sì, pagati quasi il famoso niente. Famoso rimborso spese. Diciamo che poi a costo di passare per quelli che portano sfiga, quando arrestavano il compagno, quando moriva il compagno o la compagna, ci si chiamava, va bene, andiamo. Preferisco dire Croce Rossina piuttosto che Necroforo, però ecco. E questo, no, l'attività live con più continuità? Sì, l'attività live con più continuità, tranne un paio d'anni che abbiamo avuto un momento di blocco tecnico. Però cambio bassista. Cambio bassista, che torna lui, che invece era quello precedente, che lui era andato a far figo a Londra. No, lo stronzo. Ecco. E punti di vista. Poi torniamo a fare quelle che sono le attività soprattutto concentrate sul supporto ai compagni in carcere, benefit per i compagni in carcere, e diciamo che da un paio d'anni abbiamo preso molto a cuore la questione della Novorossia, delle Repubbliche Popolari del Donbass, che conducono una lotta antifascista e antiimperialista contro la NATO. E quindi vi state un po' dedicando anche a questo aspetto. Sì, e infatti diciamo che l'ultimo disco parla proprio di... Okay. Finisce lì. Ok, allora l'ultimo disco, iniziamo dalla prima traccia dell'ultimo disco, che New York dei Decibel. Sì, sì, ovviamente, che si chiama La morte delle nazioni. Poi dovremmo spiegare anche questo concept. Partiamo da qua. Mandarmi all'ospedale, alzami fino a che ci sarà un fascista sulla faccia della terra, ci sarà un buon motivo per essere antifascista. Torniamo in onda, quindi P38 Punk, le frequenze quelle di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Violenza, 23:13. Allora, ci siamo, quindi P38 Punk sceglie di fare, dalle origini più o meno credo, insomma da quanto mi è dato sapere, di fare del punk. Questo non solo sta del nome, ma del punk senz'altro politicizzato è un sì, mettiamo un po' di aggettivi intorno a P38 Punk, così per definire che possiamo, cosa possiamo affiancare. In realtà non lo so. Beh, no, ci sta la noi filosovietico ci definimmo così all'inizio, perché vuoi per l'inesperienza musicale, vuoi perché quella era una realtà importante in quel periodo. Non importa che poi Ferretti abbia preso la mattonata in testa e mi faccia venire la acidità di stomaco ogni volta che parla, però all'epoca era qualcosa. Poi, continuando l'esperienza a suonare, ci siamo staccati da quello, abbiamo camminato con le nostre gambe, però i contenuti sono rimasti, quindi sostanzialmente c'è l'ispirazione a un altro modello di sviluppo, a un'altra via di sviluppo, una via musicale al socialismo, se vogliamo dirla con ironia. Quindi insomma attualmente non c'è un aggettivo particolare che vi potrebbe punk rimane punk. Ed è un punk comunque orecchiabile, non siete mai andati insomma oltre a sondare, che ne so, dei terreni quali l'hardcore, quali più ostici, insomma. Importante per voi che si senta bene anche quello che dite, credo, no? Sì, quella è la condizio sine qua non. I testi sono l'anima di quello che facciamo, la sintesi, una volta si diceva, del lavoro collettivo, quindi si devono capire. Per quanto riguarda poi il termine, l'aggettivo del genere, penso che punk sia un contenitore infinito, dove tu puoi fare il pezzo hardcore, puoi fare il pezzo popolare rivisitato, puoi fare anche il pezzo orecchiabile, il pezzo poco orecchiabile. Se tu senti Vittime e Carnefici, è sicuramente un disco più duro, perché stavamo in un periodo tra virgolette difficile per tutti, abbiamo voluto fare un lo-fi apposta, e anche come tempi, come suoni è molto più cattivo. Certo. Dunque veniamo appunto a questo, quindi a questo lavoro, poi magari se sarà necessario ritorniamo anche indietro con dei flash appunto sul passato. Non so, allora possiamo fare due cose: o parliamo appunto, seguiamo l'ordine, parliamo di New York, oppure invece affrontavo quest'altro argomento, non lo so, dimmi te. Facciamo un po' come ci facciamo pare. Un po' come cazzo ci pare. Facciamo un po' a casaccio, molto stile appunto alla come viene, molto punk. Che è la cosa migliore. Vista, sì. Allora no, seguendo quindi il ragionamento che facciamo prima, mi interessava sapere, anche perché qualcosa mi avete già accennato, in realtà come funziona proprio la concezione, la nascita. Cioè, è difficile che qualcuno viene e dice sì, vabbè, abbiamo suonato, sai, queste cose qui, come il parto di un pezzo. No, invece mi interessava proprio la metodologia che sovietica usate. Cioè, allora, intanto rispettiamo la tradizione dei 6 pezzi per lavoro, che è una cosa che c'è dei primi demo su MC, ed è diviso questa volta, invece che dargli un'unica impronta generale, abbiamo scelto di dividerlo in tre sezioni tematiche da due pezzi l'uno, ovvero sono due cover, due pezzi inediti e due reboot. E le due cover iniziano con, tra virgolette, quella che apparentemente può sembrare la più disimpegnata, New York dei Decibel, intanto perché i Decibel sono uno dei gruppi del periodo del nostro, della nostra formazione, del nostro orecchio, cioè siamo comunque tutti figli degli anni 70, cominciamo ad ascoltare musica negli anni 80, quindi c'era quello, c'era una scena ricchissima, c'era addirittura Juice Quillo che faceva la politicamente impegnata con le Candegina Gang, quindi... Sì, certo. Tra l'altro Orrore è bellissima, sì. La puoi anche passare se ce l'hai. Non ce l'ho adesso, c'avevo qualche cosa di Joe Squillo, però non ce l'ho appresso. Comunque ci abbiamo poi YouTube. Non sono bei pezzi, sono tante altre canzoni. The Gustibus. No, poi vabbè, vai. In realtà partiamo da quello perché all'epoca fu fatto con un senso, cioè questo sogno americano. Oggi la stessa canzone ha il senso completamente rovesciato, cioè quando ti dice non ci credo che questa sia vita, sto male perché non ho soldi, voglio più soldi tra queste mie dita, e poi prendo parto inseguendo chissà cosa, che è poi quello che fanno tantissimi ragazzi oggi, dove invece di interrogarsi sul perché del disagio molte volte seguono degli antivalori, che so, la realizzazione attraverso il denaro, e vanno via. E, ma davvero? Cioè, tu pensi che questa cosa accada proprio... Cioè, non pensi che almeno nell'ultimissima fase... No, lo dico perché proprio l'altro giorno stavamo parlando di queste cose. Un po' si sia la mitologia del denaro facile, del capitalismo, della carriera eccetera eccetera, si è un po' affievolita anche di fronte, diciamo, all'undicesimo anno di crisi strutturale, se non sei proprio di legno, cioè per carità quello di legno c'è sempre, però qualcuno comincia a farsi e qualche forse domanda. Forse questo è il motivo per cui magari vale la pena invece proprio scrivere proprio rielaborare una vecchia canzone del passato e dire, cioè dare la bottarella finale, insomma. Sì. Forse potrebbe essere quello perché il senso. Oggi, ripeto, ha un senso che rispetto a 30 anni fa... qualcuno ti capisce, lo capisce, sì. Questo senso. Comincia a esserci l'attenzione così di chi ascolta a capire il sarcasmo poi che c'è dietro. Sì, molto, sì. Anche l'interpretazione vocale sarcastica, quella che abbiamo voluto dare. Però... sempre per mischiare tutte le cose, la domanda che volevo fare io, poi alla fine ci siamo andati a finire sulla presentazione del disco, la domanda che volevo fare io era proprio su come funziona il collettivo P38 Punk, cioè come nasce proprio il disco, se c'è una, da parte vostra, pure una... proprio una teorizzazione di quello che cosa fare, cioè facciamo un disco ogni, vabbè, al di là del fatto appunto che parlavamo prima dei problemi della vita di ciascuno, per cui non sempre puoi riuscire a pianificare e programmare la tua esistenza, anzi ti tocca correre appresso agli eventi, no, come a un certo punto vedi, cominciare a vedere, diciamo, vogliamo che facciamo un disco, no? Ma vedere ci si vede sempre. Il discorso è che a un certo punto si sente il bisogno, tutti sentiamo, siamo tutti d'accordo, perché infatti noi facciamo le cose con una lentezza incredibile, perché dobbiamo essere tutti d'accordo. L'elogio della lentezza. Appunto, l'elogio della lentezza. Siamo tutti d'accordo e cominciamo a lavorarci sopra insieme. E si cambia 2000 volte, si tenta un riff, si tenta un testo, si modifica, si adatta a quel riff, ci stanno 20.000 cambiamenti, non si arriva a quel pezzo già pronto in sala, si fa insieme e si cambia in corso d'opera, magari si parte da un'idea e si arriva a qualcosa di totalmente diverso, e poi quando si è tutti d'accordo si registra e dopo la registrazione per dare tipo una cosa temporale, quanto sei pezzi 8 anni, no, meno quasi di... due. Okay. Quindi non è stata un'elaborazione di 8 anni fa, da quando avete pubblicato il tuo lavoro. Ci vuole tempo. Con noi sì. Però New York è stata fatta subito, la prima volta. E da chi è nata l'idea? Come è venuta sta cosa? No, l'idea, ripeto, non è che scegli uno che dice siamo, beh, cioè ci troviamo sarà un momento in cui magari prima sono vedi quando te conosci da una vita succede, cioè, potremmo definirla così, telepatia, una certa. Dunque, senti, mi parlo scandito. Allora, o mandiamo un altro pezzo dal disco, oppure che mi avevate suggerito, già non mi ricordo più. Io avevo suggerito Orrore di Candegina Gang. Ok, dai, mo la cerchiamo un attimo. Posso fare un contro rilancio? Certo, certo. Anche perché dobbiamo fare l'esempio del tipo di discussione che ci sta quando elaborate le produzioni, ma le autoproduzioni. Ma io, non lo so, mi sentirei, in questo momento mi sentirei gli Adverts. Che so, questi gruppi qua, i gruppi figli del passato. Vabbè, intanto mandiamo gli Erode che ci stanno, sì. E intanto cerchiamo queste altre due tracce, mentre l'altro squilla lo 0649 1750. Quindi dai. No. Portami via di qua prima che venga sera. Dimmi che vuoi spostarmi. 23:30 minuti primi. Radio Onda Rossa, P38 Punk in diretta. E dato che appunto parliamo di tradizioni, di tradizionali rifatte, Che ne dite così, la butto là, tanto perché saremo spigne pure la serata, dei 44 Leningrad, l'inno sovietico, il 17, fra cui l'inno, cioè un altro gruppo insomma che del post sovietico ha fatto un po' la sua bandiera da Berlino o dalla Germania, non mi ricordo se sono di Berlino, credo di sì o qualcosa del genere, vabbè, dopo indagheremo. Allora, quindi versione di Spara Yuri Spara. Sì, allora. Da dove esce fuori? No, perché poi dobbiamo pure cambiare completamente, è vero? Dobbiamo parlare di? Non ho capito, vabbè. Dopo, dopo ti imponi e parliamo di. Sì, di. Parliamo dei 4 cm. Parliamo del tempo, non esistono più mezze stagioni. Mamma mia. No, allora, Spara Yuri chiude la sezione delle cover. Inizia la sezione strettamente politica del disco. Beh, noi nasciamo Spara Yuri non è proprio una canzoncina leggera, insomma, così, appunto, segnale politico non proprio trascurabile. Noi iniziamo nel 91, quando crolla l'Unione Sovietica, che con tutte le sue innegabili contraddizioni però rappresentava il primo esperimento di un modello di sviluppo diverso. E questo in barba a un referendum che vide più del 70% della popolazione sovietica votare per il mantenimento dell'Unione e un democratico Yeltsin appoggiato dall'Occidente, democratico sempre, che bombarda un Parlamento regolarmente eletto perché gli vota contro. E io mi ricordo che all'epoca, quando decidemmo di fare Spara Yuri come prima cover dei P38, la facevamo solo dal vivo e malissimo, io vedevo queste persone che avevamo in mente, queste persone dal palazzo del Soviet Supremo, che armate di fucile, di pistole, insomma armi così leggere, sparavano sui carri armati di Yeltsin. Era agosto, se non era sbaglio, agosto, del 93. E mi ricordo che mi veniva il sentivo di spara Yuri, spara gli. E il discorso parte da lì, perché da lì inizia comunque anche un allargamento a est della NATO, nonostante tutte le rassicurazioni che questo non ci sarebbe stato. Gorbaciov, prima di fregarsene del referendum, ebbe l'assicurazione da Bush Senior che la NATO non si sarebbe allargata a est, che ci sarebbe stato, ci promisero un mondo di pace. Così non è stato, però tutto ma come se quasi, cioè, dovessimo dubitare delle rassicurazioni che ci dà la NATO, perché poi non è che ne dà poche, insomma. Infatti, no, sono cattivo io. È vero. Poi quando la gente è cattiva. Diciamo, sai, i pregiudizi, i famosi pregiudizi che uno non riesce. Sì, la gente è peggio che cattiva, è invidiosa. Grazie. Tanto fuori onda ringraziamo. Sì, insomma, e dopo quindi Spara Yuri, cosa succede dopo nel disco? Qual è il meccanismo, la scintilla? Dopo nel disco, come prosegue la discussione dentro il collettivo P38 Banca finché disco, si sviluppi la seconda parte? Si parte da uno step fondamentale che ci porta poi ai giorni nostri, che è il primo vero intervento armato della NATO in Europa, nel cuore dell'Europa, in una guerra che è stata scatenata proprio dall'Europa, perché ricordiamoci che la guerra jugoslava non sarebbe successa se non ci fosse forse stato. Non intervenne propriamente la NATO, ma una, non potrei sbagliarmi. No, nel 99 la NATO bombardò la Jugoslavia. Però mi sembra che era una coalizione con una serie di stati appartenenti alla NATO che avevano trovato un accordo. Erano praticamente tutta la NATO, sì, con un altro ufficialmente, nome. Sì, perché praticamente la NATO comprende pure la Turchia, per detti i turchi non credo che partecipa. Sì, pure il Kuwait mi sembra. Sì, esatto, però insomma era, non so se un'altra poi ci sono state le coalizioni dei volenterosi, però mi potrei sbagliare. Quelle vengono dopo, quelle volenterosi. Forse pure quella era la, però mi potrei sbagliare. Quella fu la prima guerra spacciata poi per guerra umanitaria, nel senso, noi abbiamo fatto questo casino, abbiamo riconosciuto la secessione croata e slovena, abbiamo dato le armi. Il primo stato che vediamo se la Slovenia. No, il primo, la Slovenia diciamo fu quasi incruenta, insomma, comunque fu una cosa che tutti poi ci fu la questione della Croazia. Qual è stato il primo stato del mondo che ha riconosciuto la Croazia? Il Vaticano. Il Vaticano, e poi la Germania però l'ha armata la Croazia fino ai denti. Certo. Perché all'epoca poi inseguiva pure il sogno di una grossa area di influenza direttamente tedesca, tra cui pure c'era pure il discorso del secessionismo nord italiano, era il periodo dell'assalto. Era già iniziata, perché poi in Jugoslavia giravano i marchi abbastanza ormai nell'economia più o meno parallela, insomma, e immediatamente poi dopo la distruzione il marco praticamente divenne la moneta stabile. Tant'è che la prima guerra jugoslava, perché poi sono state a step, si chiamò la guerra delle dogane, perché era quella combattuta. Ecco, proprio alla dogana, per il controllo delle dogane con la Germania. Bene. Sì, no, continua te. Dai. E questo ci porta, appunto, intervento umanitario parla di questo. Parla poi di una tradizione triste che si è consolidata, nel senso, noi facciamo i casini, la gente si scanna, arriviamo noi, diciamo che ci siamo stufati di vedere brutte scene in televisione. Ammazziamo tutti. Una cosa che mi piace dire, insomma, non è che la gente nel mondo che è di fuori della NATO è tutta brava gente, perché il mondo è fatto così, cioè è fatto di brava e cattiva gente. Normalmente chi in qualche maniera, specie in questi momenti così tumultuosi, arriva al potere non sono o diventano, perché anche necessità fa virtù, così, delle persone poco raccomandabili, e quando si sta in uno stato di guerra si fanno cose terribili. Ma non è questo importante, perché bisogna capire quali sono le forze in gioco, credo, no? Appunto, il che con un velo di ipocrisia poi noi mandiamo avanti. Noi ci altro. Ammantiamo, noi nel senso. Come NATO, come mondo occidentale, no? Io siamo no. Siamo sempre quelli candidi, puliti, democratici, come dire. Sì, che poi interveniamo perché ci siamo stufati di vedere brutti spettacoli, ecco. Sì, almeno così fanno. Almeno così fanno credere. Ma non abbiamo mai interessi economici nelle mai. Aree, mai. Siamo cattivi. Allora faccio una piccolissima pausa prima di mandare il pezzo. Invece, lato musicale. Parlavamo prima appunto di questo disco che non era pesantissimo come il precedente, però insomma è un disco assolutamente punk. Come avviene appunto questo discorso? Qual è l'accento che avete voluto dare? Prima ti interessavi, chi assomiglia, chi dice qualcosa, chi mi ricorda, io dicevo Exploited, ma così sparavo alle prime quattro note. Ah, te dici queste cose qui, chi ricorda? No, a ruota libera. Qual è l'aspetto più schiettamente di produzione del pezzo? Teoricamente è relativamente un semplice. Un po' più vicino sempre? Teoricamente non si avvicina un po'. Teoricamente è relativamente semplice, perché sì. Basta andare in una sala e registrare tutte le cose su delle tracce separate. Dopodiché quello diventa un fatto di produzione. Quelli dopo, chi fa il mix. Queste cose qui, cioè lui alla fine dà un sound completamente diverso, quindi bisogna chiederlo a chi ha fatto effettivamente la. Dici che insomma una parte determinante scelte, poi dell'uscita del suono. Dopo non è ovviamente. Una parte del. Suoni, poi dopo fanno tutte elaborazioni. Cioè in studio dici molte volte esce fuori qualcosa che è diverso da poi quello che producete dal vivo? relativamente diverso. Cioè, quando te suoni dal vivo, ovviamente non c'è qualcuno che ti remixa, suoni dal vivo. No. Purtroppo no. Perché sarebbe bello avere anche dal vivo un bel suono differente dal solito, insomma, da senso di gratificazione quando suoni. Però dicevi che era importante comunque il ruolo del fonico, no? In studio, cioè colui che poi dà un... E quello è come se fosse alla fine un produttore, alla fine. Sì, il produttore, esatto. Il producer. Quello che fa, però ha fatto un mix. Quanto ci sta dei V38 nell'uscita poi di un pezzo proprio su CD o su vinile, come nel caso vostro, anche di questo lavoro? Quanta percentuale c'è di cioè quanto aggiunge in percentuale il fonico rispetto quanto al suono su quello che abbiamo fatto? È molto diverso, perché se tu suoni... No, quanto in percentuale? Io dico quantitativamente, secondo te. Ma pure di più, perché te in sala mica si sentono così i suoni quando suoni in sala libero. Quello poi quando vengono registrati, lavorati, chissà che quindi dici, ma com'è questo suono invece? Perché poi si mettono i compressori, sì, i riverberi, tantissime cose. Prima cambia tutto. Proprio. Delle elaborazioni, com'è questo suono? È più grezzo? Comunque è più salettaro, ci sono anche delle imprecisioni che sono state comunque anche tolte su questo disco. Guarda, lo puoi sentire nel jingle che abbiamo fatto per Radio Onda Rossa. Quello è da sala. Non come esempio. Quello è proprio da allora, sala. Guarda, siccome guarda caso. No, guarda. Quello non è da sala, quello lì c'era mixato invece. Guarda caso, ce l'ho. È mixato. Sentiamo. Dai, no, bella questa cosa perché stiamo discutendo in diretta e credo che questo qui sia un esempio di come concepiscono i V38. Ma penso tutti, vanno a registrare, poi il suono è diverso. No, chi no, mi no sente anche che questo suona, contraddittorio, dico, mi piaceva perché. Si chiama dialettica. Dialettica, esatto. Quindi. V38! Eccolo qua. E tra l'altro 2017 è pure un'altra data importante. Di 100 anni oltre che 40 anni. Sì. Fra un po' di meno. Chissà, dai, che vedi prima stiamo preparando comunque una sorpresa. Dico, a parte la sorpresa, dico, ma chissà che poi, visto che prima di là in saletta parlavamo, vabbè, ma V38 Punk, mo l'ultima volta che avete suonato addirittura mi hai detto al blackout era per Radio Onda Rossa, sì. È una cosa che non mi era piaciuta tanto il locale. Io non manco mi ricordo, forse. No, io il blackout ricordo, lo detesto. Ok, perfetto. Quindi un errore che facciamo. Non un errore, perché per la radio si fa sempre vabbè, volentieri. Ma no, un errore da parte nostra, insomma, voler fare. Io non me la ricordo questa iniziativa. No, va bene, a parte questo. Vabbè, però chissà che per la fine di ottobre per il 7 novembre. Esatto, per il 7 novembre, perché la rivoluzione d'ottobre in realtà c'è il calendario gregoriano, no? Che era in vigore nell'allora Russia zarista, e quindi è la rivoluzione di novembre. Chissà che non ci inventeremo qualcosa, lanciamo così in onda al volo. Sarebbe bello. Allora, invece avevamo pronto da un'altra parte, esattamente qui un'altra cosa, che la mandiamo in onda e poi casomai ce la commentate. 23:47, 87.9 della modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa, P38 Punk in studio. E mentre variamo, insomma, ce ne andiamo a, ad ascoltare un po' di punk delle origini, quello che assomigliava molto a un rock and roll scatenato anni 70. Come mai questa scelta per The Adverts? È un gruppo che mi piace. Ah, ho capito. Semplicemente. Cioè, dice, voglio ascoltare una cosa. Vado in radio a presentare il disco. No, voglio... parlavamo di una cosa, no, lo faccio... in alternativa. Lo facciamo. Gina Gang, ho proposto questo. Lo facciamo. E vai. Comunque, diciamo che questo punk 77, che appunto gli piace al chitarrista, spesso ha influito sulle sonorità dei loro album. Fondamentalmente c'è quel rimando musicale, oltre che politico, che comunque influenza quelle sonorità appunto di cui parlavo. Ed era un punk pieno di energia. Di energia, ruvido, fondamentalmente pieno di ruvido, magari di anche speranza, di quella sorta di ribellione proprio musicale. Sì, sì. Più che anche sociale o comportamentale, quella spontaneità di ribellione proprio musicale che probabilmente sulle loro sonorità ha influito un po' da sempre. È quel lato molto appunto punk, è il lato punk dei P38 Punk che ha avuto il, appunto, la sua. Sì, perché. E poi ti dà l'idea della sintesi di cui parlavo prima, cioè ci trovi le sue schitarrate 77, esatto, magari con un cantato mio alla Ferretti o sì, sì, alla Yellow Biafra, o come in questo disco alla Niagara. Ideali Niagen, politici e sentimentali, secondo me, che appunto li conosco bene. Una cosa che contraddistingue molto l'ultimo album è appunto il forte sentimento politico, non sentimentalismo, nel senso quella melodia quasi romantica e comunque molto sentita a livello di concetto politico, che poi viene portato avanti. È una politica diverso, pure dell'anima, cioè qualcosa che ti viene da dentro. È un ideale che viene portato avanti e musicalizzato poi fondamentalmente. Beh, citando Moore, una rivoluzione senza un ballo è una rivoluzione che non vale la pena fare. Ok, mi sembra un buon punto per poter continuare e la discussione di questa sera. Dunque, mentre va in onda sotto di noi la Furia, con cui avete detto che avete anche incrociato, no? Delle macchine, bravissimi. Mi hanno lasciato. Suonammo al nostro solito concerto di Natale al Bencivenga, che da più di 10 anni ci vede presenti, e quella sera mi lasciarono i sassi, la Furia. Ho fatto, minchia, questi, la Furia, ti ricordi, no? Che io sono rimasto, ho detto, Dio, questi sono macchine. A me non piacciono. Non piacciono, ma perché probabilmente sei più legato proprio a quel tipo di sonorità, appunto, più spensierata. 77. Esatto, 77. No, mi piace il rock classico. Qui stiamo sui piena contaminazione crossover, quindi colpa con mia. No, perché colpa. Ad esempio, in questo spazio sono sonorità che vanno contemporaneamente, ma anche nella stessa serata, tranquillamente insieme, quelle del crossover e quella del punk, perché poi il crossover c'ha la sua parte. Sì, poi premesso, dentro i P38. Poi insomma, se voglio dire, se ti piacevano, eravate la Furia, invece siete i P38. Sai che mi piace molto di oggi, sì, di Roma, è Giuda, riconosci? I? Giuda. No, lo sai che è un gruppo, cioè, di l'ho sentito nominare, ma non credo di. Manco io. A me conosco. Piace da impazzire proprio. Allora, sono dopo di Roma. Ti faccio, provo a farti sentire. Provo a farti sentire un'altra cosetta di un'altra band. Vabbè, però parliamo di Pitre. Mamma no, ma parliamo. Sì, no, sì, ma no. Parliamo di Pitre, sì, no. Punk. Però. No, non solo, ma. No, cioè, la cosa. Perso. No, sì, no, è facile che ci si perda in questo spazio, in questi. Però no, andando appunto col cervello in giro così, secondo, no, per carità, seguendo così le dinamiche dei neuroni impazziti, le dinamiche elettriche del cervello, ecco, cosa c'è di P38 Punk in relazione con gli altri gruppi e le altre band della scena? Cioè, quanti P38 Punk in termini proprio di relazioni con gli altri, prendono, danno, che tipo di rapporto c'è con il mondo dell'autoproduzione oggi, con, sempre dialettico, allora, come dicevamo prima? Roma o nazionale? Comunque tutto il discorso, allora iniziamo con la premessa che facciamo tutti comunque una vita abbastanza monastica, quindi è difficile che ci si veda a fare presenzialismo in giro, quindi è difficile anche avere rapporti se non con quelli che hanno superato gli anta, purtroppo, o quantomeno stanno a enta inoltrati. E poi c'è un discorso invece che quando ti trovi a fare delle battaglie insieme, a quel punto scatta un legame anche umano. Quest'anno a Modena abbiamo suonato per un compagno della banda popolare dell'Emilia Rossa che era stato arrestato e condannato per la sua testimonianza di antifascismo militante, e loro fanno una cosa che con noi non c'entrerebbe niente. Certo. E con noi perché c'erano banda popolare con fisarmonica, chitarre acustiche e tutto il resto, e no? Con noi c'erano i Radici nel Cemento, altra band che fa cose che fa totalmente diverse, però va detto che stavamo tutti quanti lì per lo stesso motivo, e quella è il quanto si dà a vicenda, indipendentemente dal genere che si fa. È quello che fai, è il tuo agire che ti qualifica, non l'etichetta che ti appiccichi addosso. E invece rispetto al mondo del punk? Il mondo del punk a Roma, ahimè, è parecchio legato all'hardcore, noi non siamo un gruppo hardcore sostanzialmente, quindi tranne appunto con i gruppi più vecchi difficilmente ci si incrocia, se non appunto per qualche benefit. Può darsi pure che in futuro, per carità, non ci poniamo limiti, perché poi anche quella è una scena che è di tutto rispetto, anche se è una scena diversa sostanzialmente dal nostro percorso, dal nostro sentire, molto più recente, sì, cioè. Purtroppo siamo più vecchi e quindi ognuno è legato comunque a un certo tipo di suono. Per dire, qualche settimana fa è venuto Lorenzo degli Wendy, che è un gruppo rock and roll da una costola del Bloody Riot, da una costola del Bloody Riot, e lui è meno, penso poi si sente, ma anche già dei Lorenzo è legato a un rock and roll anni 80 proprio. Ce l'hanno nell'anima, nel cuore, nelle mani che girano sulla chitarra, insomma. E ognuno c'ha ognuno c'ha una vibrazione che appartiene normalmente, non so a quale periodo della vita, comunque al post adolescenza, probabilmente affonda le radici proprio nell'adolescenza, in questo primo moto di ribellismo giovanile, quando a un certo punto cominci a e io andai a fare i 3 giorni ascoltando nel Walkman Naia de Merda, quindi bellissimo. Una delle poche cose, per esempio, dei pochi gruppi che abbiamo in comune, tra l'altro poi Roberto era pure mio vicino di casa, Campo di Carne, e lo ricordo con tanta nostalgia, ci facemmo qualche serata insieme sempre per benefit. Ma lui più anarchicheggiante e te più invece legato a una tradizione comunista? Allora, pure qua dentro i V38 ognuno ha l'idea diversa, ci stanno due anarchici, uno che ha votato Ferrando e uno, l'unico, che è legato a una tradizione marxista-leninista di formazione maoista, che sono io. E appunto questo è il famoso discorso della sintesi, cioè si discute, si parte da una visione del mondo che comunque è una visione del mondo condivisa, perché un comunista vero, un marxista, ha come obiettivo la fine dello Stato, il sovvertimento dello Stato presente di cose, che è esattamente quello che vuole un anarchico, è la prassi che cambia. E quindi, ma soprattutto questo qui è il potere del punk. Il potere del punk. Ecco perché le tempistiche poi sono quelle che sono, perché metti insieme tante capocce. Certo. Però deve essere una cosa che alla fine mette d'accordo tutti. Però la sintesi. Cioè, quando tu mi chiedi che cosa c'è dei V38, al di là del fatto cosa strettamente c'è di personale, sì, dici? Nel disco, io gli dico c'è tutto, perché poi alla fine tutto quello che è venuto fuori, al di là del discorso strettamente tecnico, è il risultato del confronto tra tutti noi. Ci scrociamo per registrare. Vai, vai, più vicino al microfono. Ci scrociamo per registrare. Vi scrociate. Ma questo atteggiamento, diciamo così, ideale, ecco, più puramente, come dicevi tu, dialettico, sempre per ritornare al discorso che mi facevi te, nella parte musicale, cioè nella parte proprio del suonato, c'ha una sua rispondenza, c'è un corrispettivo, un parallelo nell'accavallarsi proprio degli strumenti e delle voci che compongono il pezzo, della stessa dialettica che ci avevate invece per strutturarlo in linea teorica il pezzo. Quindi che cosa voglio dire, no? All'inizio si fa, è complicato, cioè, all'inizio mi spiego meglio, ma sì, no, ce lo auguriamo che si senta. No, ah, ok, cioè questo questa dialettica, questo conflitto che diventa dialettica, si sente anche nella parte musicale? Beh, quella che senti è la sintesi poi del conflitto dialettico. Come? È un percorso parallelo comunque, l'atteggiamento idealista che va di pari passo con l'atteggiamento comunque della struttura del pezzo. Cioè ogni cadenza, diciamo, possiamo dire, del pensiero che fa parte dell'ideale in qualche modo si rispecchia nel riff. Cioè, per esempio, Gian Patrizio pone un'attenzione particolare quando deve sottolineare dei passaggi che sono idealmente forti. Ovviamente io, non essendo chitarrista, non sapendo mettere due note insieme, tranne Ditti è stato, che è l'unica canzone P38 di cui ho fatto la musica, non ho la capacità di tradurre con degli accordi un sentimento che accompagna le parole. Gian Patrizio su questo pone un'attenzione che è maniacale, quasi benedettina. Sta lì, ci si mette le sere e le sere. Sì. Ogni singolo effetto deve essere. Mi piace fare le chitarre, registrare. Cioè fare quelle cose che normalmente non puoi fare, quindi puoi fare più solo incisioni di chitarre, tutte queste cose qua, e mi piace molto. Che vuol dire normalmente non puoi fare? Dal vivo sempre? Se suoni dal vivo c'hai una chitarra, diretta, una chitarra sola, no? Certo, invece registrando io, lui vuole dire che invece dedico molto a le chitarre, che, diciamo, un po' ci entro in fissa anche. Però insomma cerco di fare così. E allora, siccome abbiamo detto delle cose pregnanti, insomma, magari confuse, sicuramente, anzi, chiediamo a 0649-1750, che è l'ascoltatore medio e l'ascoltatrice media che stanno di là dall'antenna di Radio Onda Rossa, di semmai chiamarci e dirci: guarda, non si capisce un cazzo, come penso che... Non si capisce niente. È stato tutto molto Molto confusi, però forse in questa confusione emerge la poesia. A me pare una buona radiofonia. Vabbè, non andiamo d'accordo su nulla, vabbè. No, nemmeno dicevo... nelle impressioni. Mi sembra. Vabbè, può essere. Ci sono intoppi. Può essere. Sì. Beh, non è scoppiato niente. No, però... Buona radio. Dato che stavamo parlando, abbiamo detto un sacco di concetti, eccetera, eccetera, bisogna sentire come queste cose concettuali poi hanno risultati nel suono. Quindi siamo pronti a mandare la terza traccia, che si chiama Intervento Umanitario, appunto. non credo che era quello che scaldava tutto, ma penso siano le note dei P38 Punk che comunque. Ah, grazie. Mille. Allora, quindi lo vogliamo un po' raccontare il testo? Beh, il testo ne avevamo parlato prima. Sì, sì, sì, il testo ne avevamo parlato prima, ma adesso l'abbiamo sentito, quindi vorrei che ripetessi, mettessi l'accento su... E si parte appunto con Sparaiuri dalla dissoluzione dell'URSS. No, del testo. Si arriva appunto a questo intervento umanitario, che è il primo intervento, la prima guerra nel cuore dell'Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. Ma recitacelo proprio. Ah, questa mattina alba rossa su noi, questa mattina i sogni infranti dei tuoi. Con le bombe esportiamo la democrazia, le guardiamo cadere e il futuro va via. Questa è la nostra vergogna, questa è la nostra infamia. Bravissimo. Okay, bravo. Era quello che volevamo. Grazie. E quindi, dato che abbiamo superato questa trasmissione, si chiama, lo dico anche a voi, insomma, lo sanno tutti, te e tutti gli ascoltatori, si chiama 25 o'clock perché sarebbe l'ora rubata ai ritmi del consumo e della produzione. Dimmi. Sai, credevo, avendosi sempre sentito per radio, che fossi completamente diverso. È una cosa tipica che volevo comunque. Io lo immaginavo senza barba. No, vabbè. Ma chi ha detto che ce l'ho? Cioè, questa è vero, una cosa, ma questa è la mia illazione momentanea. È un tuo modo di vederti vederci radiofonicamente. Ok. Allora, dato che appunto, diciamo, questa è la 25esima ora, l'ora rubata dei ritmi del consumo e della produzione, però credo più o meno tutti quanti di produzione in qualche maniera campiamo, e di produzione quella capitalistica, insomma, purtroppo, quella che ci vede schiavi in varie forme di lavori, che siano salariati o autonomi, comunque schiavi del lavoro. Andiamo avanti, perché sennò finiamo alle 4. Siamo arrivati. No, è fighissima, perché io mi sto divertendo. Stiamo improvvisando. Con questa follia, sì, è un mercoledì di della Orson Welles, quasi. Allora, passiamo alla traccia successiva. Siamo arrivati alla 4. Abbiamo fatto metà disco. Ok, e questa chiude la sezione degli inediti con I giorni nostri, cioè questo allargamento della NATO che inizia col crollo dell'URSS, prosegue senza veli, anzi col velo della guerra umanitaria, con la guerra in Jugoslavia, ma in tantissimi altri posti, che ci porta ad avere una serie di conflitti che non si erano mai visti. Con la guerra in Iraq, vediamo se... A un certo punto c'era questo tabù della guerra, innanzitutto era un tabù americano, statunitense per l'esattezza, che sì, perché preso si ricordavano le botte che avevano preso in Vietnam dal compagno Ho Chi Minh. E quindi per un sacco di tempo sta guerra era in qualche maniera un tabù, vuoi perché appunto c'era il terrore nucleare, no? Quindi si è dovuta aspettare la dissoluzione dell'URSS di qui prima. Però appunto a un certo punto si rompe questo tabù e si fanno guerre dappertutto di continuo, senza soluzione di continuità, dalla guerra in Kuwait, Iraq, fino ai giorni d'oggi. Praticamente non c'è stato un anno in cui non ci sia stato qualche intervento umanitario. E però nel 2014, cioè il copione è sempre lo stesso: ti finanzio un movimento locale, un gruppo locale per destabilizzare un governo che non mi piace, faccio scatenare una repressione, intervengo in qualche modo e metto su un governo fantoccio. Nel 2014 succede una cosa imprevista: il copione inizia in Ucraina sempre con lo stesso, cioè i movimenti di Maidan appoggiati da Stati Uniti e Unione Europea. Poi c'è pure Vittoria Fakhtewe-Nuland, che fa capire pure quanto poi parenti serpenti siano Stati Uniti e Unione Europea, che, non sapendo chi metterci al posto di Yanukovych, non trova niente di meglio che appoggiarsi a gruppi dichiaratamente nazisti. Svoboda o Pravi Sektor nel loro statuto si dichiarano partiti per il socialismo nazionale, ovvero nazionalsocialismo, che è il nome completo del partito nazista. Si richiamano a Stefan Bandera, che era il collaborazionista numero uno dell'SS di Hitler durante l'operazione Barbarossa, e pensano che così, come si dice a Roma, tengono per i coglioni la Russia. Però a parte l'annessione della Crimea, che quello è un altro discorso, nell'est dell'Ucraina succede una cosa impensabile: la popolazione si solleva e lì, dove era scatenata la scintilla che ha portato al crollo dell'URSS, nel 2014 succede una cosa che nessuno si sognava mai: vengono proclamate due repubbliche popolari, cioè repubbliche di ispirazione socialista, che combattono una guerra anche nei valori dell'antifascismo. Nella lettura occidentale nostra, insomma, europea e statunitense, con diverse sfumature e diversi accenti sui toni di grigio, viene detto, viene raccontato che è una guerra etnica, cioè che praticamente da una parte ci stanno i russi e dall'altra parte ci stanno gli ucraini, cioè le popolazioni di etnia russa e quelle invece. Infatti in Donbass, nella Prizrak, combatte pure una formazione internazionalista. E ti ho risposto. Sì, sì, no. Io volevo semplicemente fare la parte dell'avvocato, sì, del diavolo, no? Perché è giusto che appunto venga raccontato. Anche appunto la narrazione quanto è importante, no? Poi la narrazione e la contronarrazione. E voi fate contronarrazione, quindi, a quanto ho capito. Sì. E questo pezzo, la traccia 4, appunto, torniamo a noi, si chiama Mozgovoj ed è dedicata al compagno Alexei Mozgovoj, che fu il fondatore della brigata Prizrak, una brigata dichiaratamente comunista, ispirata da valori comunisti, che ha anche un commissario politico. E al suo interno c'è la Interunit, che è un'unità di internazionalisti che si richiama agli internazionalisti spagnoli che andarono a combattere in Spagna contro il fascismo di Franco. E questo Mozgovoj, oltre a essere un militare, era anche una persona che faceva discorsi politici. E nel 2014, quando nel nome dei valori europei si tenta un'annessione all'Ucraina, e invece uno ti risponde no, perché l'uomo non è una merce, perché siamo tutti uguali, perché lo Stato è il popolo ed è del popolo e i beni sono di tutti, sembra che dicesse una follia. Però io mi ricordo che quando lo vidi piansi. La prima volta che lo vidi parlare, erano dopo 14 ore di lavoro, stavo distrutto, mi commosse, così come mi commosse sapere della sua morte, ucciso in un attentato, visto che non riuscivano a ucciderlo sul campo di battaglia. E questo pezzo parla di lui. Ok, eccolo qua. E lo mandiamo da capo perché inizia proprio così, eh. Sì. Subito, a bestia, vai. Yeah. quando venne Barbarossa, primavera era iniziata, SS per le strade con l'ordine terra bruciata, massacri, incendi e fosse, lotta metro dopo metro, ma compagni non si cede, non un solo passo indietro, così è nata Sayuz, una stella brilla d'Oriente. Istituzioni di diritto proletario sono diventate realtà. Così è nata Sayuz, sovieschi, socialisti e schirespoblì. Istituzioni di diritto proletario sono diventate realtà. Il tempo n'è passato e quel muro è ormai crollato, oramai la verità è quella dell'America. Ci diranno del terrore, Golan e deportazione, ci diranno che è sbagliato, ti diranno che è fallito. Vogliono far scordare lavoratori a comandare della loro produzione, fabbriche senza padrone, e anche la nostra libertà quanto è figlia di quel sogno, di quella bandiera rossa che si alza sul Reichstag. Così è nata Sayuz, una stella brilla d'Oriente. Istituzioni di diritto proletario sono diventate realtà. Così è nata Sayuz, sovieschi, socialisti e schirespoblì. Istituzioni di diritto proletario sono diventate realtà. Dopo URSS degli IDP, istituzioni di diritto proletario alla Tuscia, ritorniamo a noi con P38 Punk. Anche con loro, no? Ci avete suonato? Sì, a febbraio, serata per il Donbass, carovana antifascista della banda Bassotti, c'era pure Sigaro e sarà una bellissima serata meticcia, pure racconta questa, esattamente come... Come? Racconta la storia di Viaggio Globale. Il Villaggio Globale, tra l'altro, io non ci volevo suonare perché l'ultima volta che ci suonammo noi nel 93 per una serata organizzata da Rifondazione Comunista, tanti anni fa. Alla fine della serata venne un dirigente di Rifondazione e disse: voi qui non ci suonerete mai più, perché noi avevamo avvisato che non era il caso in una serata punk di mettere la strumentazione in mezzo alla gente. Ovviamente la serata è stata un po' movimentata e si sono lamentati danni. Hanno spaccato tutto, sì, da qualche parte ho anche firmato. Però a distanza dei vent'anni si può dire che noi al Villaggio ci abbiamo risuonato. Rifondazione, insomma. Non pervenuta. Va bene. Comunque, ecco, sì. No, volevo porre l'accento su quanto stiamo scoprendo quest'anno in realtà questa formula delle serate meticce, cioè dove ognuno per la stessa causa porta la sua arte, ed è una cosa bellissima, cioè veramente mi ha fatto pensare a quella frase di Majakowski che dice: gli artisti non sono lo specchio del mondo, sono il martello che lo modella. Bene, e vabbè, insomma, qui citazione dopo citazione, insomma, saliamo le vette del... No, siamo culturisti. Sì, siamo culturisti, come dice. No, era forse questo il senso della domanda che vi facevo all'inizio, insomma, dire quale tipo di contaminazione. Beh, allora al te l'ho momento, detta. Sì, al momento non c'è, perché ancora non c'è battere e levare da parte di di P38. Quello è difficile. Però chissà, magari che fra 5 anni, perché poi in realtà è quello che si cambia poi nell'arco di molto tempo. Te stesso lo dicevi, insomma, i P38 Punk del 2017 non sono i P38 Punk del 1992, insomma. O del 91. Navigatori discendenti dei romani, io sono come... Allora, siamo arrivati alla quinta traccia e... che inizia la sezione finale, cioè sì. Sono i due reboot. Due reboot che sono l'Internazionale, con cui da qualche anno iniziamo sempre i concerti, chiedendo anche che la gente si alzi in piedi, perché i simboli hanno anche un loro valore. E stare in un posto a fare un altro tipo di socialità ha un valore diverso che andarsene in un locale... e spendere, alimentare il ciclo del consumo. Quindi è bene che si abbia coscienza anche che nella socialità c'è qualcosa di diverso. E tra l'altro c'ha un grandissimo merito. Io personalmente lo dico, cioè esprimo subito il peccato, insomma, originale. Non conosco la seconda strofa dell'Internazionale. Perché alle adesso manifestazioni vuoi? Cantavamo solo la prima. Invece su questa versione c'è tutto. Io sono anche un fan del coro delle Mondine, quindi so tutte. E vabbè, quindi diciamo la dobbiamo presentare, non credo che ce ne sia bisogno, se non che, dai, diciamo, dato che l'avevamo citato prima con il buon Allegro con Fuoco, no? La trasmissione di musica classica, diciamo chi è l'autore e tutti i riferimenti storici. Non c'ero io. Era il francese del 1800 e qualche cosa, però non mi ricordo il nome. Beh, però è stata composta per pianoforte, questa ne sono certo. Va bene, e allora andiamo con l'Internazionale. Il tuo desiderio le patite, perché se io ti spaccherò il culo, noi ti spaccheremo il culo, tutti noi ti spaccheremo il culo. Cazzo integrazione licenziati, sono sempre più disoccupati, senza reagire questa merda cittadina, sempre più incomini, da palla alla rovina. Voglio sapere perché opera e lavora per te, voglio sapere cosa te li rende schiavi di te, voglio sapere perché quando lo lavori da me sei padrone delle mie fatiche, perché se io ti spaccherò il culo, noi ti spaccheremo il culo, tutti noi ti spaccheremo il culo. Allora, 87,9 della modulazione di frequenza Radio Onda Rossa, 29 minuti dopo la mezzanotte. E non parte nulla, come mai? Eccolo qua, adesso, ci partono i Nabat da soli, insomma. Fate i Nabat! Allora, questi erano i Colonna Infame che io personalmente, con molta amicizia e molto affetto, dedico a Maurello, il nostro primo batterista, per 8 anni, e spero che ci sia ascoltando. Uno dei migliori batteristi di Roma, ma forse pure di più, anche sì, anche provincia e sì, mare dell'area metropolitana, dai. Ok, perché in particolare questa Borghesi abbiamo ascoltato? Perché l'abbiamo fatta pure noi. C'è un fischio nel disco precedente, Vittime e Carnefici, e anche noi abbiamo voluto fare Borghesi, ovviamente riadattata. Però non in versione Oi, insomma in versione più punk. Però è una cosa che mi ha fatto sentire anche vicino a Mauro, che è una persona a cui voglio molto bene. Ok, allora continuiamo con, perché siamo arrivati alla fine, tra l'altro, incredibilmente, in mezzo ai mille deliri e partenze per la tangente, dialettiche, ma che è una costante, come se piovesse, come se piovesse. Siamo arrivati alla fine, incredibilmente, quindi sesta traccia, per questo La Morte delle Nazioni. Non vogliamo dire perché si chiama La Morte delle Nazioni, perché poi insomma, perché abbiamo tenuto fino alla fine. A oggi, una cosa che per secoli era una cosa difficile da immaginare, però si è avuto una carrellata di Morte delle Nazioni, a partire dalla morte dell'URSS, fino ad arrivare a quella che è la morte degli Stati Uniti, che sono un impero fondamentalmente in declino, che ha perso l'egemonia, mantiene la supremazia solo militare, ma quella è relativa. Pure Roma fino alla fine riusciva a vincere con l'esercito, il problema è che non riusciva ad arrestare il declino. 453, battaglia dei Campi Catalaunici, Ezio sconfigge Attila, ma neanche 20 anni dopo finisce tutto, perché si era persa proprio l'egemonia, che è anche un'egemonia culturale. Ormai alla stronzata del sogno americano non ci crede più nessuno. Questo qui è senz'altro un elemento, ma è forse però, cioè cosa c'è dopo La Morte delle Nazioni? Così sarà forse tematica per il prossimo. Ti rispondo disco, citando i testi sacri. No, pare brutto, no, però perché, li cito, devo citarli. Quando sono gli stati nazionali, sono stati i primi stati europei a nascere, quindi all'inizio l'Inghilterra, la Francia, la Gran Bretagna, la Francia, insomma la Gran Bretagna viene addirittura dopo, perché appunto è primo regno, è un'altra nazione, tra l'altro, che mi sembra non è che se la passi goda di ottima salute. Dopo torniamo alla leninistica questione, la vexata questio: socialismo o barbarie? Bah, io la vedo più barbarie attualmente come siamo messi. Pure io, però, insomma, da marxisti dobbiamo avere il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. L'ultimo pezzo è Fischia il vento ed è il singolo del 2009. Che perlomeno venderemo cara la pelle, vuole dire, di sì. Fronte a questa morte delle nazioni. Venderemo cara la pelle, sicuramente non faremo un passo indietro. Il pezzo è sostanzialmente lo stesso, che abbiamo fatto qualche modifica, infatti è un URSS mix. Per le cose tecniche abbiamo cambiato qualche volume, qualche cosa. Veniamo alle cose tecniche, dai. Non lo so. Che io sappia è stato nuovamente fatta un'operazione di finale che si chiama mastering, che ha appena cambiato il suono di come era prima, praticamente. Ok. L'ha reso più meccanico, più. Bene. Va bene, quindi ci ascoltiamo questa versione di Fischia il vento. URSS che... mix. Ok. Sì, detto così. Delle immense compagnie, mi torna a miliardi, ho sempre in due, gli anni a muso duro, punk e skin, il 501. No, i placcaggi li possiamo sentire. No, no, è la versione di placcaggio, si può sentire. Sì, sì. Come? Siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso clan. No, no, dai. Ci si perde dentro altri ospiti di 25 o'clock, appunto, dei placcaggi. Invece no, ho fatto tutta la presentazione fatta bene per mandare Fischia al vento. Mandiamo Fischia al vento, dai. Infatti. Il 06 491 750, il recapito di Radio Onda Rossa. E siccome l'incipit, l'inizio, appunto, questa versione remixata di Fischia il vento è da paura, non possiamo che rimandarla a capo, come nella migliore tradizione di 25 o'clock e di Radio Onda Rossa. Da capo, Fischia il vento. Bisogna andare a conquistare la rossa primavera. Una versione questa qui di Fischia il Vento, come la definiremo? Una versione dove ho suonato 5 chitarre una sopra l'altra, ma non contemporaneamente. No, non contemporaneamente. Gli piacerebbe. Una per una, ho tanta dedizione. In allora, incisione anche. In diciamolo. Grazie. Come ed è uscita questa versione, io ho detto elettropop, mi veniva da, però magari non è proprio. Però molto anni 80. Ho messo anche il basso su questa canzone, che non avevamo il bassista in quel momento. Ah, okay. Beh, questa secondo me, nel mio giudizio, richiama molto agli Alibi SSSR di CCT. Certo, è certo, sì. Questa era fatta pensando almeno a quella. Assolutamente. E sì. Comunque sì, ma in realtà è quasi ballabile. È ballabile. Cioè possiamo danzare tranquillamente il poco. Sì. Qui hanno è fatto... plateale, non lo so. Sarà il successo dell'estate a Ibiza quest'anno. Sì, hanno fatto un mix estremo che è diventato così. Con nostra figo, sorpresa, effettivamente ci piaceva pure a noi. È poi figo. Oltre alle 5 chitarre ci sono anche molte sovraincisioni di voci, non so adesso quali quanti. No, quanti non è vero. No, il coro però era. No, cioè quando avete fatto il pezzo. Il coro era, proprio fisico. Erano tante persone. Erano tante persone. Stavamo per quello in dicevo è plateale. Era peggio della gente che c'è in questo studio stasera. Esatto, era un Porto de Mare. Era un collettivo P38 Punk. Però un grande un collettivo nel caos. I cori con tutti i cori. Dal caos nasce l'ordine. Dai diamanti non nasce niente, dalle da me nasce, nascono prima i fiori. La voce sua, e poi i cori. E a Roma no, quando fa caldo è una conca. Allora, 25 o'clock, 41 minuti dopo la mezzanotte, P38 Punk ci hanno presentato la loro Morte delle Nazioni. Ne sentiremo parlare, li sentirete senz'altro, come già succede in onda Radio Onda Rossa. Un lavoro insomma estremamente radiofonico, da un certo punto di vista, con riferimenti e citazioni assolutamente esplicite. E ci andiamo a far aiutare da P38 Punk, che come avete, anzi lo rifacciamo, lo risentiamo un attimo al volo e poi ci aiuti un po' a raccontare quello che succederà il 16 e il 17 di questo mese. Intanto beccatevi questa. Allora, che succederà il 16 e 17 di giugno di questo mese? Io ti dico il 16 o ti dico il 17? Io ti direi il 17. Il 17 mi vuoi dire? Vabbè, per motivi affettivi. Va bene, allora io leggo il 16, dai. Però mi devi dare tempo perché non ero pronto, ovviamente. Ah, se vuoi ti dico il 16? No. Tanto qua ormai... è un po' la radio delle libertà. Vabbè, intanto noi facciamo sentire 9-9 perché il sito della radio è lento, è lento come P38 Punk. Però appunto parlavamo prima dell'orologio della lentezza. Fatto. E intanto mandiamo rancore che ci stanno sempre bene anche perché... Yeah. Allora, 16 e 17 giugno Onda Rossa Festa, quindi cominciamo da sabato. Da sabato. Venerdì, scusate, perché il 16 è venerdì. Qui siamo proprio le basi del mestiere. Pare che sia venerdì. Allora, 16 giugno, dalle 20, kermesse musicale con l'Ostre Salto, Murga, Cumbia e Power Folk. Poi gli Scasso con Fusion Ska Jamaicano, i Rancore, che stanno ascoltando sotto nostra voce, Hardcore and Roll, Polemica, Think Rock Band, Female Trouble Band non vengono, Wojaja non vengono, questo non è stato aggiornato, vabbè, però verrà, il Muro del Canto ci saranno e ci sarà anche Signor K. Ovviamente è in funzione, sono in funzione le cucine e i punti dove si beve, e ci staranno dove si beve, ci staranno appunto i DJs e le DJs di Radio Onda Rossa. Si dice così, comunque in italiano sono quelli che mettono i dischi, sì, cioè noi altri, che staranno giocatori di dischi. I giocatori di dischi. No, mettono i dischi. Allora qui la dico un tu po'. Conta che io non dico selfie, io dico autoscatto. Esatto, no. Quindi, ma io non so nemmeno che cos'è, nemmeno voglio saperlo che cos'è il selfie. Esatto, però no, noi almeno nel nostro gergo, dove va, si diceva così negli anni 90, nostri e vostri, forse anche negli anni 80, per noi, dove vai, vado a mettere i dischi in radio. Questa era la a domanda risposta, quindi per noi è mette i dischi. Ok. Allora, e invece il 17? Il 17, non avrò la tua perfetta pronuncia perché non parlo una parola di spagnolo, però ci stanno gli España Circo Este. Sì. Olé. Che probabilmente andremo a sentire, gli faremo una Latin punk rock. Vai. E poi, vabbè, i 44 Leningrad, Russian Speed Folk. E per finire, una persona a cui noi siamo molto legati. Sì, e ci dici pure perché. Che è Danilo Fatur, artista del popolo dei CCCP fedeli alla linea, che quest'anno a sorpresa ci è venuto a trovare a un concerto e così è nata proprio sotto il palco. Gli faccio: Fatur, Danilo, sali. Lui è salito e si è fatto tre pezzi con noi. Fra cui? Fra cui Sparaiuri, Tummenti e l'Internazionale. Oh, vedi, allora. Vabbè, e quindi anche per il sabato tutto quello che avevamo detto prima. Poi ci stanno un sacco di altre cose. Magari la prossima puntata, che staremo proprio ormai sotto la data della festa della radio. Aspetta, durante entrambe le giornate ma sarà aperto il sito, dall'altro, ma aperto la pagina quella buona alla fine. Però durante entrambe le giornate sarà in funzione la cucina e gli alcol corner. Perché alcol corner? Angoli dell'alcol. Corner musicali. Sì, con i musicali. DJ e le DJ di Onda Rossa. Che sarebbero quelli e quelle che e dovete consumare perché la radio non campa d'aria. No, consumare non consumare. Dovete bere. E dovete bere. Stare bene. Ma dovete pure sottoscrivere. E dovete sottoscrivere, che quello è importante. Grazie quindi a P38 Punk. E il nostro ovviamente è un arrivederci. A presto. Speriamo per i 100. Ma assolutamente speriamo prima dei 100. Speriamo prima, però i 100 è eccitante. Sicuramente per i 100 saremo qua, malgrado insomma, forse un po' più acciaccati di adesso. Però ci staremo perché tanto siamo dignosi e fino a che non la famo sta cazzo di rivoluzione non morimo. Siamo una razza difficile da eliminare. A me ricordava la donna di Jenny in un ballo di tanti anni fa. ci siamo, andiamo concludendo. Parlavamo di ABBA, abbiamo parlato veramente di tutto. E quindi, mamma mia, 44 Leningrad. Allora, no, per salutare quindi Peter Tot of Punk, una cosa avevamo dimenticato, la diciamo adesso, cioè come fare a contattarvi, a trovarvi. Allora, tramite le vostre pubblicazioni, piuttosto che vai. Tramite la classica posta elettronica p38punk@hotmail.it, il sito ufficiale www.p38punk.altervista.org, il blog che è p38punk.wordpress.com. Su YouTube? Su YouTube quanti ne vuoi, sia sul canale ufficiale che cose da rocche. Sul canale ufficiale c'è solo P38Punk oppure c'è anche quello che vi piace? No, c'è solo P38Punk. Benissimo. Quindi non avete che andare in rete. E se volete approfondire l'argomento, cercare, trovare e approfondire. Noi pian pianino con 44 Leningrad ce ne andiamo. No, ce ne andiamo con Danilo Fatur, ve lo diciamo. Nel frattempo vi diciamo. Questa sera ti volevo chiamare, questa sera ti volevo. E la nebbia è finita nel mio bicchiere. Dicevamo, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Ario, delle sue repliche, delle sue selezioni musicali. Si riprende domani mattina in diretta alle 8 con le prime pagine, la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali. Ma lei tenebro. previsti per la mattina di Radio Onda Rossa fino alle 13, quando ci sarà il GR, alle 13.30, lo spazio comunicazione 14. Visionari la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa e Tracce di Cinema, a seguire alle 15. Nella notte, la buona Martis protegge. No, bisogna aspettare Attica Blues. E la nebbia ti protegge. Oltre la Black Music. E poi appunto Martis con La Schiena del Sol. 18.20 è il momento dei redazionali della sera di Radio Onda Rossa, del pomeriggio in questa stagione. 18.20 Mezzedes, alle 20 lo spazio comunicazione 20.23. Il martedì autogestito da femministe e lesbiche, che va in onda il giovedì. Il caos della radio. Alle 23 i cuginetti d'apostasia, che salutiamo. È la nebbia che ci sale come un gas che non fa male. E la nebbia mi circonda come una bella piomba. E la nebbia che ci prende e il cuore tra le teste. E la nebbia che ci ama come una bella. Stasera ti volevo. Il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, in Italia, arresti domiciliari, i famigerati CIE. Ma lei silenziosa si continua a spogliare. E tutti gli strumenti della repressione amministrativa che porta compagni e compagne ad avere in qualche misura limitata la libertà, quindi obblighi di residenza, obblighi di firma. Tutto quello che comporta quell'apparato giuridico repressivo che è la legge Minniti. Tra i miei fiori è la nebbia che ci assale come un gas che non fa male. E la nebbia mi circonda come una bella bionda. È la nebbia che ci prende il cuore tra le tende. È la nebbia che mi ama. Ce ne andiamo così con Danilo Fatur, che lascia il posto alla la luna comunista, under communist moon. Dai, The International Noise Conspiracy. Bella, ci risentiamo mercoledì prossimo. Bella.